Sono le 19.40 di lunedì 6 maggio 2024. E temo che anche questa sarà l'ennesima puntata dell'ennesimo revival sugli anni 70 che sta diventando un'ossessione mia, ma scopro anche sempre più di tutta la mia generazione. E comincio seriamente a interrogarmi sul perché. Cioè, la prima più ovvia spiegazione, abbiamo già detto, può essere un po' questa dilatazione anagrafica, per cui tutto quello che abbiamo vissuto quando avevamo 14, 15, 16 anni ci sembra infinitamente più lungo. E poi anche più bello, perché sì, erano anni pieni di pensieri sui temi macroeconomici e macropolitici, c'era la guerra fredda, però nelle nostre microvite eravamo spensierati, eravamo ragazzi, non eravamo distratti dall'immenso rumore dei media come oggi, anzi i media era qualcosa di confinato a dei momenti ben precisi nel corso della giornata, ma poi i nostri pomeriggi erano lunghi, sì, c'era da fare i compiti, però c'erano anche questi lunghi pomeriggi di noia, ma anche di riflessione, in cui avevamo il tempo per dare un senso alle cose, senza dovercela vedere col senso che qualcuno era sempre pronto a dare le cose al posto nostro. Però guardando questa serie di Netflix sulla guerra fredda, che chiaramente spettacolarizza un po' tutto, però è comunque una serie documentaria, quindi diciamo worth a watch, vale la pena dargli un'occhiata, sono forse giunto ad un'altra conclusione, e cioè che il motivo per cui guardiamo queste cose all'indietro è sì anche perché ci ricorda anni spensierati nelle nostre piccole vite, è sì anche e soprattutto perché è tutto così documentato, c'era comunque già il cinema, la radio, la televisione, ci sono tante immagini che hanno poi il fascino della grana, dell'analogico rivisto nella chiave digitale di oggi, c'è la diversità, no? Oggi possiamo andarci a leggere tutte le fonti, possiamo persino leggerci gli atti delle commissioni sulle stragi, per fare un esempio, possiamo leggerci tanti documenti originali, senza così anche per avere una nuova chiave, diversa rispetto a quella di chi aveva in mano il racconto ai tempi. Possiamo persino leggerci Pentagon Papers, possiamo costruire tesi e controtesi su tutti i grandi misteri, non solo italiani ma anche internazionali, i missili di Cuba, la crociata maccartista. Chi manovrava dietro i movimenti di protesta del 68 e quindi anche il parallelismo con i movimenti di protesta di adesso. Però io sono giunto alla conclusione che il motivo per cui oggi abbiamo questa fascinazione è che noi alla fine sappiamo che alla fine siamo sopravvissuti. Alla fine c'è un happy ending e questo lo sappiamo, e che ci permette di dimenticare che nel frattempo viviamo nuovi momenti estremamente turbolenti e ci sono nuove grandi incognite, nuove grandi incertezze di cui non sappiamo l'esito. E questo non solo per colpa dei soliti cattivi di turno, il Putin di turno, lo spauracchio del momento, quelli ci sono sempre, per carità, e sono spaventosi, ma anche per il modo in cui i cosiddetti buoni se la stanno vedendo con loro, esattamente come negli anni 60 era un grande business la paura della minaccia sovietica, della minaccia comunista, ha tenuto in piedi l'industria pesante, diciamo così, di un intero paese e di tutti i paesi che erano sotto quell'ombrello, ha regalato tanti posti di lavoro pubblici e privati, intrecciati da loro e quasi sempre in condizioni di monopolio, quasi mai in una reale concorrenza. E lo stesso mi sembra che stia succedendo adesso, cioè c'è tutta una generazione di intellettuali, giornalisti, politici, personalità pubbliche, personalità del mondo delle aziende, che vive di questa paura quotidiana, vive di della capacità di mettere in cattiva luce qualsiasi diversità espressa naturalmente quasi sempre dalle giovani generazioni. Lo vediamo in questi giorni, poche cose fanno paura come per esempio queste proteste nelle università americane che si stanno allargando in tutto il mondo, cioè più vengono contrastate e più si allargano perché diventano popolari. E quindi quello che fa paura non sono solo i cattivi, ma il modo in cui i presunti buoni dovrebbero contrastarli, li stanno contrastando. Oppure stanno tutti facendo lo stesso gioco? Non lo so, non voglio essere complottista. Dico solo che forse il grosso problema, ancora una volta, è la scarsa lungimiranza. Quando riesci a mettere a fuoco solo quello che è vicino, anche i vantaggi che puoi facilmente ottenere giocando sulla paura, sull'ignoranza, sulla disinformazione, e non hai assolutamente il quadro generale di quello che sta succedendo, che proprio come nel 62 con la crisi dei missili di Cuba, a un certo punto potrebbe andare fuori controllo. Quella volta ci andò molto bene e questa volta non lo so.